Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Florida 1982, uccide il giudice che l'aveva assolto. Storia di Ted Bundy, in Scala Fibonacci. Capitolo 1. Amo, amo, io amo. Io la amo. A dire il vero no, non la amo, ma io l'ho amata. Perché cos'altro poteva essere quell'ignobile strazio allo stomaco e al petto? In quanto a poter dire poi se anche lei, in quei lunghi giorni d'estate, mi abbia amato, non lo so. Come potrei osare io, con così poca esperienza, nonostante il numero decoroso di anni che si sono sommati nella mia vita, come potrei osare avventurarmi a capire quel mistero che è la mente femminile? Perché anche se è forse vero che la natura ha deciso uno strano giorno di giocare con se stessa creando dal pube di una femmina la prima variabile maschile, forse solo per rompere la noia di una routine prevedibile e monotona, è ugualmente vero che quel giorno sono iniziate le irreversibili incomprensioni tra i sessi. Possiamo noi ora soltanto ipotizzare che ciò sia accaduto per mero, oltre che crudele divertimento, di brillanti divinità aeree, la cui fantasia era forse corrotta da sostanze sacre e intossicanti, oppure ipotizzare, come un positivista qualsiasi, che si sia trattato piuttosto del gioco ironico di una truffaldina elica di DNA, oppure solo coraggiosa in vena di scherzi, se non di curiosi esperimenti, il cui fine potrebbe essere stato calcolato e voluto, ma che molto probabilmente sfuggì nei secoli all'obiettivo originariamente previsto dell'intelligenza superiore che poteva averlo partorito. Capitolo 2. Sì, sì, io amavo, io la amavo, per questo l'ho uccisa. Perché su questo non ci possono essere dubbi. Io l'ho uccisa e l'ho fatto perché l'amavo davvero troppo. È possibile, potreste ora chiedermi voi, seduti su quelle sedie, eliminare dalla festa che la vita proprio la persona amata? Allora potrei dirvi, anzi, dico che è possibile, poiché questo ho fatto, pur sapendo che mentre distruggevo ciò che mi aveva reso possibile l'esistenza, avrei iniziato l'inarrestabile conto alla rovescia verso la mia fine. Com'è possibile che lei non abbia mai letto, non abbia mai nemmeno intravisto per un attimo, nelle nebulose delle mie iridi vellutate, i bagliori del mio piano, che mirava poi solamente ad un unico e glorioso obiettivo, quello di renderla immortale, ghiacciandone per sempre il ricordo nella mia memoria, incorrompibile ormai da suoi successivi atti. Capitolo 3. Sangue, sangue, troppo sangue, ma come troppo? Non ero mai sazio, ho bevuto tutto il suo caldo sangue salato. È ora mescolata a me per sempre, nelle mie vene siamo ancora uniti. Potreste condannarmi con le vostre leggi, ma non riuscirete a separarla da me, nemmeno quando mi avrete versato dentro un'urna. Non ho bisogno di capire le sue azioni, né di trovare spiegazioni a quello che ha fatto per portarmi a spaccarle in due la testa e a stringere così la sua mente tra le dita. Capitolo 4. Ora, ora. Sono calmo, sono più tranquillo, non temo proprio niente e nessuno di voi, non mi spaventano gli sguardi che male nascondono ciò che pensate di me. Trattasi di un incontrollabile impulso istintivo e animale che si è impadronito di una mente temporaneamente instabile, dice ora il giudice. Capitolo 5. Libero, assolto, per sempre, unito a lei, vi maledico dal bar proprio qui all'angolo. Sono vivo, ma mi avete tolto la possibilità di essere immortale con lei. Capitolo 6. Caffè. Pronto? Prego, signore. È il giudice. Non si ricorda di me. L'ho fatto caldo come piace a lei. Capitolo 7. Soffoca. Muore. È fatta. Ora la riavrò. Vengono a prendermi di nuovo. Capitolo 8. Cella. Aula. Il tribunale. Tocca a me. Adesso avrò ciò che voglio. Capitolo 9. Siringa. Veleno. Nel sangue. Ci stanno uccidendo. Capitolo 10. Buio. Muoio. Dove sei? Capitolo 11. Capisco. Adesso. Capitolo 12. 1. Carlo Pizzati, in libreria con Tecno Sciamani, FBE Edizioni, 207 pagine, 14 euro.